Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Giugno 1982. In Italia tutti lo cercano da giorni, ma di lui, Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, ancora nessuna traccia. Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da due giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa. 18 giugno 1982. Il vento che viene dal nord soffia forte e increspa le acque scure del Tamigi. Il popolare corrispondente della RAI, Sandro Paternostro, annuncia il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo. Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni. Forse di più, ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. Ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore. Sotto il ponte dei Frati Neri a Londra viene trovato impiccato il presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi. È l'epilogo di una delle più travagliate avventure finanziarie avvenute nel nostro paese. Nato a Milano nel 1920, Roberto Calvi entra al Banco Ambrosiano nel 1947 come impiegato. La lunga marcia verso il vertice dell'istituto comincia negli anni 70, quando viene già definito un banchiere emergente. Il 15 ottobre 1975 Calvi è nominato presidente dell'Ambrosiano. La scalata sembra inarrestabile. Presidente della centrale finanziaria, membro del Consiglio di Amministrazione e vicepresidente dell'Istituto Centrale Banche e Banchieri, consigliere del Comitato Esecutivo del Credito Varesino, presidente del Banco Ambrosiano Overseas Limited di Nassau. Nel 1978 l'Ambrosiano subisce un'ispezione dalla vigilanza della Banca d'Italia, che dura 6 mesi. Calvi viene inquisito per sospette esportazioni di valuta e nel 1980 si vede ritirare il passaporto. Banca d'Italia e Tesoro approvano comunque l'aumento di capitale dell'Ambrosiano a 50 miliardi di vecchie lire. Calvi decide di espandersi anche nel settore editoriale. Il 22 aprile 1981 la finanziaria acquista il 40% della Rizzoli S.p.A. Diventa così controllore del gruppo che detiene anche il Corriere della Sera. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2. Vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, nella villa di Licio Gelli. Il 17 marzo 1981, i giudici istruttori di Milano Gerardo Colombo e Giuliano Turrone, nell'ambito di un'inchiesta sul falso rapimento del banchiere siciliano Michele Sindona, perquisiscono Villa Wanda, la dimora di Licio Gelli, e la fabbrica Giole, divisione di Lebole, di proprietà dello stesso Gelli. L'operazione viene eseguita da uomini della Guardia di Finanza. Dagli archivi di Gelli emerge una lista di 962 iscritti alla loggia P2. I documenti testimoniano l'esistenza di un'organizzazione che intende prendere il possesso delle leve del potere economico, politico e finanziario del nostro paese. Il manifesto della loggia P2 viene scritto dallo stesso Gelli. È il piano di rinascita democratica, contiene una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della loggia nei settori chiave dello Stato. Alla loggia massonica P2 fanno parte ministri, deputati dei partiti di governo, i vertici dei servizi segreti SISME e SISDE, della polizia, carabinieri, guardia di finanza e ancora faccendieri, imprenditori, uomini delle istituzioni, dello spettacolo, dei mestieri. La scoperta degli elenchi della loggia P2 scuote a quel punto i palazzi della politica. Tina Anselmi, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta. La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese. Enrico Berlinguer, segretario dell'allora Partito Comunista Italiano, in un'audizione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla P2. Quello che via via si sapeva, si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portato immediatamente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o attraverso denunce di carattere giornalistico. Massimo Teodori, relatore di minoranza della Commissione parlamentare, preferisce parlare di stati maggiori della società più che un progetto comune. Io non amo parlare di P2, io amo parlare di stati maggiori o gruppi della P2 che hanno operato. La P2 è un'astrazione, quelle 900 persone non sono mai viste, mai incontrate, non hanno mai avuto un progetto comune, non hanno mai operato tutti insieme. Per lo più non si conoscevano, quindi io parlo di stati maggiori di settore. Certo, esisteva uno Stato maggiore nell'informazione, uno Stato maggiore nei servizi segreti, uno Stato maggiore nel sistema finanziario, gruppetti abbastanza ristretti, cooperavano a loro volta con collegamenti, ma parlare anche di P2 è un'astrazione, Bob. Se non vogliamo essere teorici, ma vogliamo essere concreti, parliamo invece di aggregazioni attorno a dei fatti specifici, a delle operazioni specifiche. Anche il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, risulta iscritto alla loggia massonica P2. In 34 buste sigillate è contenuta anche la documentazione relativa ai rapporti tra Roberto Calvi e Licio Gelli. In questa dichiarazione il venerabile fa intravedere che nella P2 in realtà c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone. Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2. Arriva a tutti. Lei dice che molte persone arriva a tutti. Erano coinvolte in questa regna tela. Arrivano a tutti, vedi. Ma chi manca ancora? Chi manca? Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono. E dalle indagini milanesi emergono intrecci e affari di Licio Gelli e di un altro uomo chiave della loggia, Umberto Ottolani. Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non sono capace di toccare una cosa meccanica, non so neanche. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano, ma di carattere mondiale. Io avevo mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta venire per il lavoro dei miei figli, soprattutto una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina. Il 20 maggio 1981 scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. Condannato a 4 anni del carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio e ottiene la libertà provvisoria. Mesi dopo rientra al vertice della banca. 27 aprile 1982. Il boss della banda della Magliana, Danilo Abbruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. Abbruciati viene invece ucciso da una guardia giurata. Anni dopo, Maurizio Abbatino, pentito dalla banda della Magliana, parlerà dell'uccisione di Danilo Abbruciati e di questa strana trasferta milanese. Poi quanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora. Insomma. Sembra una cosa organizzata. Ho questa impressione. Non dico che uno dei servizi veri, però poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato. Danilo Abbruciati, che rapporto aveva con voi? Diciamo che è gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Restaccio, con Renatino De Pelis. C'è un personaggio ambiguo. Era un po' schivo, una persona insomma tra Lazzi, conosceva tutta la Maria di Roma, conosceva tutti, c'era un sacco di nemici, aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata. Maggio 1982. La Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo Ambrosiano. 17 giugno 1982. Le quotazioni vengono sospese. Roberto Calvi è già da giorni irreperibile. La sua segretaria, Graziella Corrocker, si suicida. Il giorno dopo viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Omicidio o suicidio? Dopo la pausa riprende il racconto del giallo e nero su Roberto Calvi. Giallo e nero di Daniele Biacchessi. Omicidio o suicidio? Mettiamo in fila i fatti. Prima scena, la fuga. Le 6:30 del 10 giugno 1982. L'autista si reca nell'abitazione di Calvi, ma il banchiere non c'è. L'11 giugno è già a Trieste. Al suo arrivo, il banchiere viene preso in consegna da Silvano Vittor, profondo conoscitore dei valichi di frontiera. Deve mettere Calvi in condizione di espatriare illegalmente. Destinazione Klagenfurt, Austria. Il banchiere ora ha in tasca un nuovo documento d'identità a nome Calvini. Raggiunta Klagenfurt, Calvi telefona alla figlia Anna. Sono stanco morto. La sera del 13 giugno 1982, insieme a Vittor, raggiunge in auto Innsbruck. Poi vola a Londra, su un velivolo privato. Insieme a Calvi c'è ancora Silvano Vittor. Per entrambi, in Chelsea Cloister Avenue, c'è una prenotazione all'appartamento 881. Sera del 17 giugno 1982. Alcuni uomini prelevano Roberto Calvi, lo caricano su una macchina con autista dal forte accento siciliano, lo trasportano sulla riva del Tamigi. Seconda scena, il ritrovamento. All'alba del 18 giugno 1982, un impiegato delle poste britanniche si reca al lavoro. Per correre la riva del Tamigi è nota un corpo che pende da una corda legata a un traliccio del ponte dei Frati Neri. Due autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria inglese giungono a conclusioni diverse. Una stabilisce che Calvi si è suicidato, l'altra lascia il verdetto aperto: suicidio oppure omicidio. Terza scena, l'inchiesta giudiziaria italiana. Il giudice istruttore del Tribunale di Milano sostiene la tesi del suicidio, ma non esclude la possibilità che il banchiere sia stato assassinato. 1988, processo civile intentato dalla moglie del presidente dell'Ambrosiano, Clara Calvi, contro le assicurazioni generali. Il Tribunale di Milano sostiene che Roberto Calvi è stato ucciso. 1992, la Cassazione trasferisce l'inchiesta sulla morte di Calvi da Milano a Roma. 1997, il GIP del Tribunale di Roma, Mario Almerighi, emette un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio a carico del boss mafioso Pippo Calò e del faccendiere Flavio Carboni. Quarta scena, la svolta, 1988. Otello Lupacchini è il nuovo GIP del Tribunale di Roma. Lui ordina una nuova perizia sulle cause della morte di Calvi, riesumato il cadavere del banchiere. Il GIP chiude l'inchiesta e la passa ai sostituti procuratori della Repubblica di Roma, Luca Tescaroli e Maria Monteleone. Per loro Calvi è stato ucciso. Il reato è omicidio aggravato e premeditato. Chiedono il rinvio a giudizio per il cassiere di Cosa Nostra, Pippo Calò, il potente faccendiere Flavio Carboni, l'esponente della banda della Magliana, Ernesto Di Otallevi, e dell'allora compagna di Carboni, l'austriaca Manuela Kleinsig. Si comincia da zero. 21 anni dopo la morte del banchiere Roberto Calvi, anche Scotland Yard riapre l'indagine. Quinta scena, il ruolo del Vaticano e dell'amministratore dello York Paul Marcinkus. Dice il pentito di Cosa Nostra Antonino Giuffrè in un verbale segretato. Le disavventure di Calvi sono iniziate quando ha investito senza oculatezza grosse somme di denaro di Pippo Calò e in seguito ai contrasti di natura economica con il suo gruppo. Poi ho saputo che a fatica quelle somme di denaro sono state recuperate. A Calvi veniva imputato il fatto di non avere gestito bene i soldi che gli erano stati affidati e questa cattiva gestione aveva fatto fare una brutta figura allo IOR, la Banca del Vaticano. Il rapporto di fiducia fra Cosa Nostra e Calvi si era rotto. Le cose della mafia si risolvono in un solo modo, con l'eliminazione. Sesta e ultima scena, i protagonisti secondo l'accusa.

molti anni dopo. Tra gli imputati Pippo Calò, Flavio Carboni, Ernesto Diotallevi, Manuela Kletzinger, resta aperta un'indagine a stralcio sui mandanti dell'omicidio che vede indagate una decina di persone. Tra queste c'è l'ex maestro venerabile della loggia P2, Licio Gelli. Il pentito della banda della Magliana, Maurizio Abbatino, è uno dei testimoni chiavi in questo processo. Dopo essere stato sentito dai magistrati, ora ha paura, si sente minacciato. Lo ha rivelato pochi giorni fa al programma Chi l'ha visto di Rai 3. Ho paura perché è cambiato uno stato di sicurezza, non è più quello che avevo una volta. E nonostante delle persone sono ancora fuori, alcune sono a piedi libero, i processi sono ancora in corso. Mi trovo particolarmente esposto. Io non sapevo neanche che era stato riaperto e comunque c'era in corso il processo Carmi. Sarà anche una casualità, però io sono stato addirittura arrestato per una stupidaggine, una crisi, insomma, una macchina che non c'aveva la revisione. Sono arrestato e sono trasferito in un carcere duro, un carcere di Sulmona. Sulmona carcere dove famoso per i suicidi. Durante questa detenzione sono stato chiamato a Roma per un interrogatorio per il processo che questo è chiamato come testimonio, e nello stesso giorno mi viene detto che durante il trasferimento non sarei più ritornato a Sulmona, ma sarei andato a un altro carcere che fino all'ultimo hanno tenuto segreto. Maurizio Abbatino era uno degli uomini chiave della banda della Magliana. Certamente lui conosce molto della morte di Roberto Calvi. Potrebbe cioè aggiungere altri elementi, ma le condizioni, come dice, non sembrano favorevoli. Io non lo so, forse una persona fa delle cose senza saperlo neanche. Questo dipende molto dalle domande. E anche dalle condizioni ambientali. Sicuramente quelle di oggi non sono le condizioni adatte per tante generazioni nuove. Per cui se tante volte migliorano quelle condizioni, le potrebbe anche dire qualcosa di importante. Oggi non sono condizioni, ma non soltanto per me. Io spero che le condizioni cambino, in modo che possa parlare anche qualcun altro oltre a me. Chi potrebbe parlare? Ma sono tante le persone che potrebbero parlare. Sono passati ormai molti anni dalla morte di Roberto Calvi. Su questa, come altre vicende italiane, resta una verità storica. Ma il problema oggi è trasformare quelle intuizioni investigative in una verità giudiziaria. È la vera sfida che il nostro paese deve ancora compiere. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Montaggio e sonorizzazione di Carmelo Lauricella.